gusto. Se mi tocca veder questo vecchiaccio sputarva dalla bocca, sputarva dalla bocca, arrabbiarsi a rapinar, arrabbiarsi a rapinar, arrabbiarsi a rapinar, arrabbiarsi a rapinar. La marchesa cucciniera, cucciniera, quando mi si scoppina, che grida, che brutta cera, che brutta cera, che brutta cera, per stregone, che sarà? Io mi credo dalle grisa già d'avermi a sveglicar, già d'avermi a sveglicar, io mi credo dalle grisa, già d'avermi a sveglicar, già d'avermi a sveglicar. Quando vi si scoprirà, io mi credo dalle grisa. Già d'avermi a sveglicar, già d'avermi a sveglicar. Gusto! Arrabbiarsi a rapinar, arrabbiarsi a rapinar, che grida, che brutta cera, che stregone che farà. La marchesa cucciniera, quando il fil si scoprirà, io mi credo dalla crisa, già da vermi a svellica. Che gusto, se mi tocca a veder questo vecchiaccio sputar bava dalla bocca, arrabbiarsi, rapinar, che gridar, che brutta cena, quel stregone che farà. Quando al fin si scoprirà la marchesa cuciniera. Oh, che gusto! Io mi credo dalle grisa già da